frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. E buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo tornate con una nuova puntata di Frequenze sui Generis. Come vi abbiamo lasciati la scorsa settimana, vi avevamo detto che avremmo parlato questa settimana della manifestazione che c'è stata a Verona il 30 marzo contro il Congresso Mondiale delle Famiglie, ed eccoci qua a parlarvi esattamente di questo tema, cara Anna. Sì, tra l'altro diciamo che per come è andata la manifestazione di sabato 30 marzo saremmo delle giornaliste orribili e delle conduttrici terribili se non ne parlassimo. Io sono molto contenta di questa cosa, lo avevamo già annunciato, ma effettivamente è andata così bene che non possiamo non parlarne e siamo molto felici di farlo. E quindi adesso ascoltiamo il primo e credo unico brano di questa nostra puntata e poi dopo rientriamo subito in studio ad ascoltare le parole di Paola Rudan di Non Una Di Meno Bologna, che ci racconterà un po' com'è stata questa manifestazione e soprattutto com'è stata l'assemblea che si è tenuta il giorno dopo, il 31 marzo, sempre a Verona. Siamo in collegamento con Paola Rudan di Non Una Di Meno Bologna, che è già stata ospite sulle nostre frequenze poco tempo fa in vista dell'8 marzo. Questa volta parliamo di un'altra grande manifestazione organizzata anche questa volta da Non Una Di Meno, che si è tenuta questo weekend a Verona. Vabbè, intanto io ti ringrazio di stare con noi e ti saluto. Ciao Paola. Ciao a tutte voi, grazie a voi per l'invito. E per prima cosa ti chiederei proprio un pochino di raccontarci la manifestazione di sabato e soprattutto di darci un po' qualche ragguaglio sui numeri, su quelle che è stata anche la vostra percezione della manifestazione. Allora, io sono molto contenta di dire che ho un'idea limitata a soltanto uno spezzone della manifestazione, che è quello che abbiamo coordinato come Non Una Di Meno, insieme a Non Una Di Meno Verona e Non Una Di Meno Torino, che è stato lo spezzone d'apertura. Dico che sono contenta di dire questo perché è così, in quanto non sono assolutamente riuscita a muovermi per il corteo. E il corteo era di una grandezza, di una densità e di una compattezza che è stata semplicemente impossibile guardare in fondo, arrivare fino alla coda. Ho potuto vedere dei video nei giorni successivi che sono video veramente imponenti. So che la comunicazione ufficiale dei vigili è di oltre 130.000 persone presenti, ma non oso, cioè, come dire, mi immagino che anche in questo caso i comunicati istituzionali siano come sempre una sottostima, diciamo così. Credo che in ogni caso quello che vada registrato e che per tutto il giorno sui giornali principali di questo paese i numeri non sono andati oltre le 20-30.000 persone, che è un segnale politico di cui bisogna prendere atto, cioè un tentativo di negare l'esistenza di un movimento impressionante, un movimento autonomo, un movimento femminista che ha un messaggio chiaro, che si è sentito chiaramente nella piazza di Verona con una compattezza anche in questo senso straordinaria e che è emerso da ogni slogan, da ogni canzone, da ogni presa di parola che è stata letteralmente pronunciata all'unisono da quella piazza. Sì, esatto, la narrazione in realtà che poi abbiamo visto sui giornali, diciamo, è stata un po' diversa, nel senso, noi eravamo anche lì presenti e io posso confermare che effettivamente non si riusciva a capire quante persone fossero, ma nel senso che era veramente impossibile muoversi, ma si capiva che erano tantissime. La manifestazione è anche partita con una puntualità incredibile, proprio perché nella piazza non ci stavamo più, quindi praticamente il primo spezzone è partito subito. E invece effettivamente la narrazione che c'è stata sulle principali testate è stata sempre intorno ai 20-30.000 numeri, poi che tra l'altro invece sembra siano stati ingrossati per la manifestazione del giorno dopo, ovvero la marcia della famiglia, che veniva data con 10.000 partecipanti, quando in realtà, per dire, Popolare Network so che diceva che era presente in piazza, so che diceva che erano circa 3.000 persone. Sì, non è una dinamica che stupisce. Quello che può essere registrato è che tutto quello che è stato dibattuto attorno al congresso di Verona è stato dibattuto come se fosse sostanzialmente all'interno della tensione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, con sprazzi di luce che hanno illuminato temporaneamente l'opposizione del PD o piuttosto appunto delle realtà istituzionali che sono state in piazza. Non si può negare che ci fossero, evidentemente, soltanto che bisognerebbe registrare che chi ha prodotto questa mobilitazione è stato un movimento femminista autonomo che ha un respiro transnazionale, che fa un discorso che non si limita a difendere diritti esistenti o a rivendicarne di nuovi, ma un discorso che ha fatto vedere una critica della famiglia come istituzione, che in questo momento sta supportando molto chiaro non soltanto il luogo dove si produce la violenza domestica, la divisione sessuale del lavoro, ma sta facendo vedere come questi discorsi familisti, che abbiamo visto nella loro dimensione più estrema e più violenta nel World Congress of Families, sono legati a una organizzazione neoliberale della società e alla sua faccia brutalmente razzista. Questo si sta cercando di semplicemente ignorare, perché è un discorso che non sta assolutamente all'interno delle dinamiche di una dialettica tra l'opposizione e il governo, ma le spazza via per la stessa dimensione transnazionale che ha e che si è vista per esempio nell'assemblea di domenica. Paola, volevo farti una domanda complicata, quindi insomma una domanda personale. Secondo te il fatto di sottovalutare o comunque non voler parlare dell'esistenza di Non Una di Meno, che riesce a mobilitare così tante persone tutte insieme in una manifestazione meravigliosa, perché solo forse chi c'è stato riesce a capire quanto fosse bella, ma credo che anche le immagini, in realtà, per chi non ha partecipato, dessero proprio la bellezza di questa manifestazione. Allora ti chiedo, questa miopia da parte dei partiti, da parte dei sindacati confederati, cioè tu pensi che sia un'incapacità di leggere qualcosa o una volontà? Probabilmente ci sono le due cose insieme, cioè credo che questo movimento sia un movimento che mette in discussione ogni forma di organizzazione, di espressione politica che noi conosciamo. Lo abbiamo visto con lo sciopero dell'8 marzo. Per i sindacati è difficile confrontarsi con Non Una di Meno, perché le questioni che pone è la stessa concezione dello sciopero che propone, che è pratica, che è uno sciopero politico, che è uno sciopero che insiste sul fatto che non si tratta soltanto di scioperare a livello aziendale per ottenere questo o quel contratto, su questo o quella vertenza, ma si tratta di utilizzare lo sciopero per porre un problema politico fondamentale. Infatti il giorno dopo Landini lo ha detto, lo ha voluto sottovalutare dicendo è soltanto uno sciopero politico, mentre questa è la novità con la quale il sindacato non si può confrontare, perché la sua organizzazione in qualche modo è stata basata soprattutto negli ultimi anni su un livello di gestione dei rapporti di lavoro a livello aziendale di un certo tipo, che verrebbe messo in questione evidentemente da un certo tipo di sciopero come quello che il movimento femminista transnazionale sta proponendo. Se la guardiamo dal punto di vista dei partiti, questo non è. Intanto dovremmo considerare che chi come il PD si è cercato di rifarsi la faccia dopo aver proposto il Family Day, i decreti Minniti, una determinata il Jobs Act, quindi politiche patriarcali della precarietà e razzista, di razzismo istituzionale, poi come dire va a Verona, perché è facile combattere la faccia brutta del patriarcato e del neoliberalismo contemporaneo, come quella che abbiamo visto riunita nel congresso delle famiglie. Però mettere in discussione il contenuto neoliberale insieme conservatore di politica che il PD ha fatto nello stesso modo, benché a modo suo, è una cosa che fa evidentemente problema. Dall'altra parte, questo non è un movimento rappresentativo, non è un movimento che può finire in una lista elettorale, è un movimento transnazionale, ed è evidente che per tutti questi motivi scompagina le forme politiche organizzative così come noi lo conosciamo. Lo abbiamo visto anche sulla nostra pelle. Qualsiasi esperienza di attivismo che noi abbiamo fatto, negli anni passati abbiamo dovuto metterlo in discussione a partire da Non Una di Meno. E quindi credo che le cose stiano insieme. C'è un'incapacità che è dovuta alla forma che queste organizzazioni hanno e che i media evidentemente spalleggiano, e c'è una mancanza di volontà, perché Non Una di Meno costringerebbe, e questo movimento femminista costringerebbe, a mettere in discussione forme note e l'esistenza stessa da molti punti di vista di alcune realtà che in questi anni, come dicevo, sono state assolutamente complici. specifici delle politiche che noi abbiamo contestato l'8 marzo, che abbiamo contestato a Verona e così via. Ecco, e a proposito di livello transnazionale, ora ti chiederei anche di parlarci un po' dell'assemblea che c'è stata poi domenica, che appunto era un'assemblea transnazionale che riuniva diverse attiviste, tra cui Marta Dillon, una delle fondatrici di Una Menos in Argentina, di cui ascolteremo poi un estratto dell'intervista, anche perché approfitto per dire che comunque sulla pagina Facebook di Non Una di Meno ci sono tutte le dirette Facebook di come è andata l'assemblea, quindi non avremo lo spazio durante il programma per diciamo sentirla tutta. Ci accontenteremo nel senso di un resoconto, di parlarne un po', però volendo c'è il materiale di tutta l'assemblea, ci sono anche le foto della manifestazione. Comunque appunto è stata una 3 giorni quella di Verona, con vari workshop, con varie iniziative e con un'assemblea transfemminista e transnazionale poi nell'ultima giornata, che era quella di domenica. Quindi ti chiederei anche di raccontarci un po' com'è andata. Sì, è stata un'assemblea molto importante, è stata intanto un primo passo verso una vera e propria assemblea transnazionale, che è Non Una di Meno, proprio durante l'assemblea che abbiamo fatto a Bologna, dove è stato lanciato lo stato di agitazione permanente ad ottobre. È stata la prima volta che abbiamo cominciato a discutere della necessità di fare questo passaggio, e ecco che è stato un primo passo, non perché la presenza delle compagne da tantissimi paesi non sia stata importante, ma perché è stato proprio un momento di condivisione sia della necessità di questo tipo di assemblea transnazionale, sia un primo confronto su come può essere costruita una costruzione che essa stessa deve avere un respiro non soltanto nazionale. Si tratta di invitare compagne provenienti da altri paesi, ma si tratta di condividere insieme tutto il processo, e questo è stato uno proprio degli esiti della discussione che abbiamo avuto domenica. È stato molto importante perché da una parte sono state ovviamente condivise diverse esperienze, perché è chiaro che i contesti sono diversi e lo sono profondamente per ragioni ovvie, perché se si va da Andorra, per fare l'esempio più significativo, che ha parlato segnalando, come dire, noi esistiamo politicamente a partire dall'attivazione anche da noi di questo movimento femminista, abbiamo bisogno di trovare uno spazio pur della specificità di un paradiso fiscale come può essere per l'appunto Andorra, a la presenza delle donne curde che hanno parlato della lotta combattuta, della guerra guerreggiata sul fronte contro l'ISIS e contro l'autoritarismo di Erdogan. Quindi tra queste condizioni c'è un spettro di differenze enorme. In tutti i casi però ci sono state alcune cose che sono state riconosciute. La prima è che è l'attacco che le donne che si è l'attacco verso le libertà sessuali, la libertà sessuale, la libertà di movimento, patriarcato, razzismo, sono due facce della stessa medaglia, e sono le armi che in questo momento le destre di tutto il mondo stanno mettendo in campo, che vanno di pari passo con le politiche dello sfruttamento e della precarizzazione, e che come dire, bisogna agire tenendo insieme questi livelli tutti quanti e sapendo che si intrecciano e sapendo che sono tutti ugualmente determinanti e che la nostra lotta li deve attaccare tutti. Il secondo punto è che se l'attacco è globale, globale deve essere anche per l'appunto la nostra risposta, come questo movimento in parte sta già facendo. Quindi un'assemblea transnazionale deve essere il momento in cui, a partire da un profondo lavoro di condivisione dei presupposti con tutte coloro che parteciperanno, si prova a capire che cosa significa incoraggiare questo processo, sapendo, a partire da un fatto, cioè che lo sciopero femminista è esattamente quello che ha permesso a tutte noi di uscire da una dimensione strettamente nazionale e di connetterci con altre lotte femministe che stanno in tutto il mondo costruendo l'opposizione politica agli attacchi a destra neoliberali. Per cui sulla base di questo confronto, che è stato sia delle esperienze particolari sia del piano condiviso, si è avviato il processo di costruzione dell'assemblea transnazionale e ci si è dato l'appuntamento in una prossima assemblea nazionale di Non Una di Meno per condividere e approfondire questa prospettiva, sapendo che per l'appunto tra questa assemblea veronese e la prossima di Non Una di Meno ci sarà un lavoro intermedio anche di allargamento e approfondimento dei nostri contatti a livello livello transnazionale. Noi ti ringraziamo, festeggiamo insieme comunque questa vittoria, importantissima vittoria, che è stata quella della manifestazione di Verona, e ti salutiamo. Grazie mille, veramente, grazie a tutte. E siamo ritornate in studio dopo aver ascoltato le parole di Paola Rudan di Non Una Di Meno Bologna, ma dopo aver ascoltato le parole di Paola, Anna, volevo chiederti tu come l'hai vissuta questa manifestazione, perché secondo me è stata una manifestazione meravigliosa. Allora, io l'ho vissuta proprio commuovendomi tantissimo tutto il tempo, passano sirene in sottofondo, ma non importa, a noi non interessa, ci sono sempre rumori fuori dalla finestra. Io ho pianto tantissimo, ho avuto la pelle d'oca, sono stata incredibilmente felice proprio perché era veramente una manifestazione, cioè devo dire che tutte le manifestazioni di Non Una Di Meno a cui sono stata, per me sono state non solo emozionanti ma anche sempre incredibilmente riuscite, però quella di Verona è stata proprio una manifestazione riuscita in un modo incredibile, appunto probabilmente anche per via di quanto era sentito il tema del World Congress of Families, e non dico solo in termini di numeri che appunto comunque erano impressionanti, persino la questura, che comunque ha sperato dei numeri bassissimi, ha detto che non aveva mai visto così tante persone a Verona, quindi nel senso c'è stato un riconoscimento anche da quella parte. Però al di là dei numeri era proprio anche una manifestazione bella da vedere, erano belli i cartelli, erano belle le persone che c'erano, e io personalmente sono stata anche contenta del fatto che, nonostante poi sui giornali questa cosa sia stata un po' meno evidente di quanto lo era in manifestazione, in piazza Verona era proprio chiaro e palese che la manifestazione era organizzata da Non Una Di Meno, era una manifestazione femminista e transfemminista, e si vedeva chiaramente, e non era così scontato, perché comunque c'è stato un pochino un tentativo di riappropriazione o appunto di mascherare questa parte più femminista della manifestazione nei giorni precedenti, almeno io avevo avuto questa impressione, questo timore, e invece appunto secondo me si vedeva proprio ed era bellissimo. Sì, condivido la tua opinione, Anna, anche secondo me appunto, come dicevo, è stata una manifestazione incredibile, proprio bella a livello di energie che c'erano. Personalmente in questi tempi credo sia importante, sicuramente i social uniscono tanto, ci permettono di condividere idee, esperienze, proposte, eventi, però io credo che ci sia veramente bisogno di essere in piazza, di riconoscersi fra simili e di condividere questa energia e di essere presenti nel momento in cui bisogna dire no a una serie di questioni che ledono i nostri diritti, che ci riportano indietro nel tempo. Questa cosa si è sentita tantissimo, e poi era una manifestazione veramente bella, cioè c'erano persone veramente di tutte le età, e questo l'hanno ricordato tutti e tutte. È stato molto bello vedere anziani, persone alla finestra, gente che magari non riusciva a camminare, che comunque sosteneva lo stesso la manifestazione. Questo è stato assolutamente importante. E io, come immagine, se dovessi pensare a quale immagine eleggere un po' a simbolo di questa manifestazione, ricordo una coppia con una carrozzina in cui la donna, erano compagno, compagna e neonata, la donna aveva addosso un cartello con scritto qualcosa come inutile donna sterile, e sopra alla carrozzina c'era scritto diabolica figlia di una fecondazione in vitro. Cioè, secondo me questo riassumeva tanto di ciò che è stata la manifestazione e di ciò che questo Congresso Mondiale delle Famiglie intende per donna produttiva. Sì, e poi c'erano anche alcuni altri cartelli che a me piacevano molto, alcuni erano quelli che credo, perché purtroppo col pullman non siamo arrivati in tempo, ma credo fossero quelli che erano stati prodotti durante il laboratorio sui generi che si era tenuto subito prima della partenza del corteo, durante il concentramento, in cui appunto erano stati scritti alcuni cartelli, e inoltre lo striscione iniziale, quello tra quelli di apertura del corteo, che per me è stato molto importante, fosse uno di quelli di apertura, che era transfemminista e rovina famiglie, che in un contesto come quello di Verona era importante secondo me che ci fosse un cartello del genere, perché era bello che ci fossero le famiglie arcobaleno, e appunto il fatto di rivendicare il diritto di farsi una famiglia, del fatto che qualsiasi famiglia ha diritto di esistere, ma anche dall'altra parte il fatto di rivendicare che uno può proprio non volerlo questo modello. Quindi a me piaceva il fatto che ci fossero entrambi, e poi siccome l'ho avuto davanti tutto il tempo mi è piaciuto molto anche il cartello glielo buco sto patriarcato. E poi per me anche un po' perché riprendeva tutta una genealogia precedente, Un orgasmo vi seppellirà, era bellissimo. Io devo dire che mi è piaciuto tanto anche vedere tantissimi bambini e bambine in manifestazione, veramente una cosa molto bella, davvero una manifestazione molto partecipata, una manifestazione in cui, perché per portarci i propri figli la gente si deve sentire comunque parte di una manifestazione tranquilla, e ricordo questi bambini, queste bambine con i numeri di telefono cellulare dei genitori scritte sul braccio nel caso in cui appunto da tante persone che c'erano si fossero persi. Anche questa è un'immagine che mi è piaciuta moltissimo. E poi molto personalmente, ma alla fine il personale è politico appunto, e per me è stato bellissimo anche il fatto di parteciparci poi con la mia di famiglia, nel senso che col fatto che era il giorno dopo quello della laurea e sono riuscita a trascinare anche i miei genitori e mia sorella, che poi trascinare non è vero perché erano entusiasti con i cartelli in mano, il pugno alzato in prima linea, e per me anche questo è stato molto bello personalmente, devo dire. E quindi credo non ci resti più o meno che arrivare verso la fine di questa puntata, visto Anna che tu ne avevi parlato, facendo sentire le parole di Marta Dillon. Sì, esatto, ci ascoltiamo le parole di Marta Dillon, che è intervenuta durante l'assemblea transnazionale appunto di cui ci parlava Paola, di cui lo ripeto ancora perché comunque è interessante, ci sono tutte le dirette Facebook comunque sulla pagina di Non Una di Meno, infatti noi la recuperiamo da lì, questi 2 minuti di Marta che appunto commenta anche lei la manifestazione di sabato. Non logramos todavía pensar formas de organización política que nos permitan seguir aumentando la marea sin caer en los sistemas de representación y en las luchas de ego que suceden en cada territorio donde la marea feminista crece. Y esto es una deuda enorme, compañeras. Y tampoco logramos tener un pensamiento sobre el poder, digamos, de qué se trata el poder para nosotras, de qué se trata el poder para el feminismo, de qué se trata y de qué modo vamos a tener recursos para seguir aumentando esta marea y para que no haya una sola compañera más bajo la línea de pobreza o en situación de extrema vulnerabilidad trabajando 2 y 3 jornadas. Nosotras creemos que contra la pedagogía de la crueldad, que es el femicidio, que es la prohibición del aborto, que es la imposición de la familia heterosis patriarcal, nosotras tenemos que imponer una pedagogía feminista. Momentos como el de ayer es una pedagogía feminista. Cuidados compartidos, cuidarnos entre nosotras y poner en el centro el reconocimiento de las otras y salir a buscar a las compañeras que hoy acá no están, eso es pedagogía feminista. Nos mueve, cuando decimos que nos mueve el deseo es porque estamos luchando contra el patriarcado por nuestras vidas. Es de vida o muerte, compañeras. ¡Ni una menos! Allora, io credo che molto si capisse, ma comunque Mari, che parla lo spagnolo meglio di me, ora ci tradurrà un pochino. Sì, diciamo soltanto dare un'idea generale di ciò che è stato detto, dei concetti secondo me più belli che questo discorso ha portato. Appunto ha parlato della marea femminista e il fatto di avere una riflessione su che cosa sia il potere, cioè il potere che cos'è per noi, cioè che cos'è il potere per il femminismo, e ha parlato proprio di questa pedagogia che ci sta tutte quante allevando, tutte quante, tutti quanti, la pedagogia che ci insegna il femminicidio, una pedagogia che ci proibisce l'aborto, a cui vogliamo in un qualche modo contrapporre una pedagogia femminista. E che cos'è una pedagogia femminista? È una pedagogia che ci insegna a prenderci cura, a riconoscerci, a avere cura della persona che ti sta vicino, a riconoscersi l'una nell'altra. E poi insomma il